So, Florence City Council and other Italian cities have decided to ban cars and scooters from the city centre one Sunday each month. It's a popular decision. People appreciate having the city to themselves, being able to stroll or cycle in the streets without breathing in the pollution. And there are other advantages. Listen to the rest of the dialogue. Ma prima le parole nuove. Negozi. Shops. Negozi. Aperto. Open. Aperto. Sto scherzando. I'm joking. Sto scherzando. Davvero. Really. Davvero. Ora le ascolti di nuovo. Negozi. Aperto. Sto scherzando. Davvero. E adesso il dialogo. Il comune di Firenze, the City Council, ha deciso di fermare il traffico una domenica al mese per limitare l'inquinamento. Buona idea. Sì, una buona idea. E poi tutti i negozi sono aperti nelle domeniche senza traffico. Really? Shops are open? Ah, meraviglioso. Come si dice to go shopping? Si dice fare lo shopping. You're joking. No, non sto scherzando. Si dice davvero fare lo shopping. Allora, facciamo un po' di shopping? Buonissima idea!